Quando cazzo arrivano le 6:30, oh? Ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una ci cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa pezzo c'entra? Di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai. Brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto. Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che ti voglio dire? Guarda, io se io adesso esco qui fuori, no? Mettiamo in casa che verso le... Verso... Porca puttana, mi sta chiamando la zanzara. Parenzo, Cruciani, speriamo che ve la chiudano al più presto sta trasmissione. Fate schifo proprio, voi e la trasmissione vostra. Andatevene a fanculo. Speriamo che quelli lì delle alte sfere magari vi sentano e ve la chiudano al più presto possibile sto schifo di trasmissione. A fanculo tutti e due, froci. Froci, froci. La città no! La città, Tiè! Tiè! Pure con le negre, vai! Pure con le negre! Amarezzo! Non c'hai rotto il cazzo! Ma una bella botta gli hai data! Amarezzo, sentimi bene, coglione! Tu intanto non hai occhi verdi come ho io! Primo, coglione! Non hai ricci come ho io! Coglione! E io ho cominciato a diventare grigio a 53 anni, 54. Cosa dai del brutto a me che mi tingo? Perché tu che cosa fai, imbecille? Te ne tingi che tu, idiota! E un coglione! Pensi che non mi ricordo che eri già grigio? Coglione, coglione, coglione, coglione, ospedale Bolzano, Pacnas, Bolzano. Cruciani! نحرس في المرحاض وتلقى الماء تمام تو كويون ناجي تيبو تايرون تنسيون تراديمينتو Siamo qui! Siamo qui, caro David! Siamo qui! Siamo qui! Mamma mia, mamma mia! Cosa mamma mia? Solo per dire che quello che avete sentito all'inizio, quella mia un po' sopra le righe, esternazione, ormai mesi era rivolta fa. A mesi fa quel personaggio putrido sì. Che negava l'esistenza del diario di Anna Frank, che ha detto, delle ripetuto in diretta radio delle cose vergognose sulla figura ma di Anna Frank. Che quindi ti spieghi. Il mio essermi accalorato in quel modo deriva semplicemente dal fatto, e me ne chiedo scusa ma a voi chiedi ascoltatori, scusa, non c'è niente da chiedere scusa. Non a quello zozzo, non a quella persona zozza di animo. Ma non devi chiedere scusa di zozza, niente. Ci vediamo in tribunale, ma a tutti voi ascoltatori, beh sì, a tutti voi ascoltatori chiedo invece scusa per questi minuti, come dire, nei quali ho perso le staffe. Ma non sono stati più. Contentissimi, sono non stati contentissimi. Più. Vi chiedo ma scusa, cosa? Non accadrà più. Ti piace stare nel tuo salotto, stronzo. Questo è sempre quello zozzo? Esatto. Allora, è ragazzi, sempre lo zozzo? A proposito di fake news, voglio leggervi il titolo di un quotidiano che si chiama Repubblica, no? Che sulla irruzione di un gruppo di skinhead, di quattro skinhead in un'associazione di migranti, di pro-migranti, ma anche associazione di migranti, titola in questo modo. No, senti, a proposito di fake news, no? A proposito tu sai di... che il giornalista che si occupa di questo di Repubblica è stato più volte minacciato. Ma sì, ma va bene, quello che c'entra però, quello che c'entra. Per scritto di loro, ma non sto dicendo il questo. Collega di Repubblica è stato più sì, volte minacciato, ma per carità, uno va dei bene. Giornalisti più bravi e preparati sì, sul mondo dell'estrema destra. Ma non sto dicendo niente. così ritorna il fascismo. Beh, il blitz degli skinhead. No, così sì. ritorna. Ma ragazzi, ma che come siete impazziti? Ritorna il fascismo, cos'è? Cosa? E cos'è quella roba? Ma che è il fascismo? Sono quattro coglioni. Quattro coglioni ma che vanno dentro questo? Ma tollerare ma cosa? Dentro. Ma cosa? Ma tollerare cosa? Ma fanno l'ira di Dio, le occupazioni dappertutto. Questi sono entrati, hanno letto un comunicato e se ne sono andati. Coglioni, coglioni, perché non si va dentro. Violenti, violenti. Ma violenti hanno è fatto un atto di violenza, intimidire. Ma sì. Tu devi capire una cosa, che intimidire ma è un atto carità. Di violenza, anche se non c'è come ma dire la sberla, la bastonata, ah, sì. l'olio di ricino, ma anche intimidire, cioè andare in 10 ma in infatti un posto, sono stati denunciati è si chiama intimidazione, sì, poi può essere stati, mafiosa o nazista sono stati del, denunciati sono stati credo. Denunziati, ti benissimo credo. Ma così ritorna il fascismo, è una forma di fascismo, che roba è quella? Dai. E come la chiami? È un metodo, che metodo è? L'occupazione nelle scuole che cos'è allora? Che cos'è? Non è fascismo pure quello? Che è fatta a seguito di un voto popolare dell'assemblea degli studenti, eccetera. Sì, il voto quindi, popolare insomma, di che? Di sto cazzo, il voto popolare, come? Sì. Dai. Intanto i talk show si appassionano della diatriba tra Travaglio e Scalfari, di cui a noi non ci frega un'emerita mazza. Non ci frega un'emerita mazza. La cosa incredibile è che durante la trasmissione di Floris c'era il signor Barbapapà Scalfari messo lì in una torre mentre parlava Travaglio 5 metri sotto, senza un confronto diretto, perché evidentemente Scalfari non lo voleva o Travaglio non lo voleva, non lo so, per cui c'era Travaglio che diceva le peggio cose di Scalfari e Scalfari muto. A un certo punto, quando se ne va a Travaglio, almeno da quello che ho visto, perché ho visto solo una parte, Scalfari dice: Travaglio è grillino e il suo giornale pure. Allora vorrei chiedere a Travaglio, io voglio sapere se Di Maio, che è un grillino come Travaglio, perché il giornale di Travaglio è un giornale grillino, su questo non c'è ombra di dubbio. Travaglio contro Scalfari, assurdo preferire Di Maio a Berlusconi. È assurdo preferire Berlusconi a Di Maio. Ma com'è possibile che veramente si pensi che un essere di quel genere possa essere meglio di un ragazzo che sarà inesperto, ma non ha mai rubato in vita sua, non ha mai corrotto nessuno, non ha mai conosciuto né mafiosi, né Licio Gelli, né Craxi, né Previti, né Dell'Utri, ma è una cosa semplicemente assurda. Ora però bisogna ogni tanto suggerire a Travaglio che se c'è un pezzo d'Italia che ancora vota per il signor Berlusconi, non è che sono tutti puzzoni, pezzi di merda che non guardano a Di Maio come al nuovo Sol dell'Avvenire o come la nuova prospettiva, semplicemente perché non ha rubato e non ha conosciuto Mangano, non ha conosciuto Dell'Utri, non ha conosciuto Previti. C'è un pezzo d'Italia che si identifica con il signor Berlusconi e se ne fotte di Di Maio, del fatto che è giovane, è incensurato ed è tra virgolette onesto, semplicemente se ne fotte. Se lui poi se a lui quest'Italia gli fa schifo, chi se ne frega, cioè punto e basta. Scalfari è anziano e quindi non ci sta con la testa. Secondo me ci sta con la testa, certo. E ha detto esattamente quello che pensa lui e quello che pensa una gran parte del nostro establishment. E cioè c'è gente con l'argenteria da difendere, no? Che ha paura dell'ignoto e che quindi dice: teniamoci i puzzoni che abbiamo pur di non affrontare, no? Un salto nel buio. Su questo però ha ragione, molti pur di non votare i 5 Stelle perché hanno paura di perdere qualche cosa, sì, hanno paura di perdere pezzi di potere, sì, hanno paura un'analisi. Di perdere pezzi di potere, ma non potere, non sì, è tanto pezzi potere. Di potere di privilegi, pezzi di potere di privilegi, ma e sai, hanno no, paura non... di non contare più un cazzo e preferiscono votare anche per Berlusconi, che hanno sempre odiato, pur di non farsi magari travolgere dall'ondata grillina, che poi non sarà un'ondata. Non è il caso di Scalfari, però, perché non ma è questione non so, di potere non per Scalfari, che gliene frega, quello fa il fondatore del giornale. Sgarbi non è che ha... annuncia che sarà assessore in Sicilia. Molto bene questo. Allora, Vittorio Sgarbi, come ti devo presentare stamattina come assessore alla cultura della Sicilia? Sì. Della regione Sicilia? Sì, ben trovato. Sì. La prima uscita pubblica di lo posso dire? Sì, è così. È stato nominato? Nominato. Quando? Stanotte alle 23:55. Allora, no, ma sì, sarà anche vero. Cioè, ma non le 20, so. Dai, si è fra le 23 e 50. No, ma la cosa è più incredibile. No, speriamo venga la nomina, venga presto. Questo no, ma non lo so, ci sarà anche stata. Però l'ho detto, credo Musumeci. Però la questione è molto semplice. Molti in Sicilia sono incazzati, almeno da quello che io leggo, da quello che io so dai famosi social, per il fatto che adesso Vittorio mi chiamerà, eccetera. Perché lui ha detto: beh, sto lì, dai, 2-3 mesi, starò lì perché poi voglio fare il ministro, voglio fare il deputato, il senatore, non so che cosa. Questo non l'ha detto, naturalmente, però vuole avere un ruolo nazionale. Allora molti dicono siciliano, a me non me ne frega un cazzo perché va benissimo Sgarbi in qualsiasi posizione, però molti siciliani dicono: ma se vuole un assessore a tempo, già noi abbiamo tanti problemi, eccetera eccetera, abbiamo bisogno di qualcuno che stia lì col culo, no, col culo sulla scrivania 24 hours, non di uno che va in giro per tutta Italia, Ora ragazzi, torniamo fra poco e vi racconto una storia incredibile, una storia di una condanna a un signore di Firenze, a un signore di Firenze, irruzione a casa sua, un ladro rom fa irruzione a casa sua, lui lo aggredisce, lo prende a pugni in ospedale, condannato dal giudice. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Parenzo, non si entra nell'angolo rottura della Zanzara! Guarda che sono prontamente andato a vedere le foto di questo Mr. Friuli 2017 e questo ha tutto tranne che il Big Bamboo. Senti Parenzo, devi avere rispetto delle persone anziane, pezzo di merda che non sei altro, ti incontrassi in giro ti darei due schiaffi in faccia, testa di cazzo, rispetta le persone anziane almeno, pezzente d'un pezzente che non sei altro, cerca il mio numero e telefono, mi poi vieni a denunciare, rispetta le persone anziane, coglione d'un uomo di merda, anzi uomo è un'offesa per gli uomini veri, stronzo. Allora, probabilmente questo ascoltatore fa riferimento a uno scontro ieri sera tra Parenzo e una persona più o meno anziana, che si era curata no, anziana. Anziana, però ragazzi, qui il punto non è quello. Combattiva, normale, sì, non ma è appunto, che l'abbiamo offesa no. personalmente. Ma sì, ma anche l'attacco, anche l'offesa, anche la, la diatriba feroce, va benissimo. E non ce ne frega niente anziano, no. Non è che prima difendete gli anziani e poi li volete, come dire, mettere in naftalina. Che cazzo vuol dire? Se uno dice delle cose... No, a parte che si difendeva bene. No, ma a parte questo, ragazzi... Non è che uno è anziano e dunque va comunque protetto. Se uno dice una cosa, viene qui alla radio a dire delle cose e poi si deve aspettare una controrisposta. Cioè si deve aspettare un attacco, si deve aspettare una non me ne frega. Uno quando parla, parla, che abbia 20 anni o abbia 40 anni o 70, non fa alcuna differenza. A me il giovanilismo, la cosa i giovani è tutte cazzate. O uno è capace o non è capace. O uno dice una cosa o ne dice, a prescindere dall'età. Un'altra cosa che mi fa impazzire sono le ricerche che ogni tanto escono delle università americane. Per me sono tutte puttanate. In questo caso è l'American Public Health Association, che è come se fosse, che cazzo ne so, no? L'agenzia della salute pubblica del ministero italiano, non lo so, una cosa di questo tipo. E hanno scritto, hanno detto che chi abusa di marijuana o alcol da adolescente ha meno probabilità di riuscire nella vita. Cioè chi abusa, che tra l'altro potrebbe sembrare una cosa anche scontata, no? Cioè chi si è fatto de canne per 10 anni o per 15 anni discussione, ha meno probabilità di riuscire nella vita. Ma cantanti, è pieno di, c'è un esempio di grandi cantanti che sono delle star, che hanno avuto grandissimo appunto, successo. Appunto, riuscire in che cosa? Probabilmente non faranno gli avvocati, ma che cazzo vuol dire? Quelli non lo volevano nemmeno fare. Vasco Rossi mi pare che sia un esempio di grandezza, no, assoluta. Comunque lei, non voglio entrare nel merito di... Allora, una radio locale fiorentina molto forte, che si chiama Lady Radio, se non sbaglio, Lady Radio, racconta la storia di un signore che si chiama Simone. Ripeto, entra con una bambina, con la sua figlia di 10 anni, 2 anni fa, a casa. Trova un ladro, la bambina si spaventa, lui reagisce, picchia, anche in maniera forte, picchia un rom, quello che ha trovato dentro casa. Perché io direi un ladro, semplicemente direi, un ladro rom, un ladro rom. Io direi un ladro, questo, un ladro, una persona che ha commesso un reato, questo direi. Libero, questo libero, libero, senza una condanna, nulla di nulla. Lui un anno e sei mesi per lesioni. Questa è la storia, questa è l'Italia. Ah, non è l'Italia. Siamo tornati da cena fuori sui tardi e mia figlia entra in bagno, ha sentito dare, entrai a vedere cosa succedeva e vedi una persona era entrata in casa praticamente a rubarmi e io niente, per istinto, anche per difesa della bambina, l'ho un po', diciamo, calpestato ben bene. L'ho calpestato ben bene, l'ho calpestato ben bene. Gli ha rotto il setto nasale, gli ha fatto saltare i denti. Quello si è presentato in carrozzina in tribunale. Gli ho rotto il setto nasale, gli ho fatto saltare un paio di denti e quindi lui poi è andato all'ospedale, capito? Un anno e sei mesi, quello libero, questa è l'Italia, ragazzi, che schifo. Questo è l'Italia, non è l'Italia, dai, è un esempio Lanfranco di... da Vicenza, dai, Lanfranco. Un esempio di mala giustizia, mi fa schifo, ma non è questa roba qua, mi fa schifo. Ma non è l'Italia. Fa... Poi dicono che no, non vengono mai condannati, che cazzo ridi, Lanfranco? Oh. No, stavo ascoltando, stavo ridendo, dimmi. Non posso neanche ridere. Come no? Cioè, devi ridere. Questa devi è l'Italia. Visto che hai aperto con Scalfari, Giuseppe, hai visto l'imitazione di Crozza? Sì, stupenda, stupenda. Ma che roba, ragazzi, che bomba. Vabbè, Lanfra, che mi volevi dire? No, in realtà il mio intervento è già stato bruciato dal messaggio che è passato prima del signore che si è rivolto al mancato avvocato di Padova, lì quello che hai di fianco. Buonasera, buonasera. C'è sempre mio fratello, però. C'è sempre mio fratello che fa brillantemente l'avvocato con mio padre, quindi insomma, la tradizione di famiglia è sangue. Vabbè, questo voglio rassicurarla. Franco, che vuoi dire? Spiegami. La voglio rassicurare. No, se ha bisogno di un bravo avvocato, l'ebete, lo trova. L'ebete che hai lì di fianco. Ieri dunque, sera la parola ebete sottoporrò all'avvocato Parenzo, cioè a mio fratello, sì, se ci sono i presupposti. No, non ebete, c'è nessun presupposto. No, non c'è presupposto. Ascoltami. Soltanto uno sciocco questo che chiama. Vabbè, Lanfranco, non sentiamo, ho capito. L'ebete che hai lì di fianco. Ieri sera si è rivolto come al solito. Sì. Per sì, il culo una signora anziana, io capisco assolutamente, sì, non anziana, una signora che era nella capacità di intendere e volere. Sì, ho capito, ma tu te la prendi sempre con questa creatura? Noi me la prendo anche con lei. Prima fai me la prendo se dice una sciocchezza. Il difensore dei deboli. Ma se lei dice una sciocchezza, ma non è debole, la signora ha espresso una sua opinione. Per il culo la vecchietta, perché ti viene facile, sembri Paolo, no, Brosio, ma non c'entra un cazzo, cioè, Lanfranco, ma la vecchietta non c'entra assolutamente nulla. Ma guarda che non perché so uno è se vecchio o è giovane, ha 50 o 70 anni, entra qua dentro, dice una cosa, a me non me ne sbatte una minchia se questa qua ha 80 anni o 85 anni, è indifesa, o se ne ha 18 o 20 o 25, è esattamente la stessa cosa, è uguale. Ma vuoi dirmi che Parenzo non ha questo debole a pigliare per il culo le vecchiette? Ma no, con lei me la piglio, lei si piglia per il culo da solo, quindi non c'è neanche bisogno di dire niente. Vabbè, Lanfranco, Parenzo, allora? Dimmi, caro. Niente, Giuseppe, niente. Stammi bene, va là. Giuseppe, vai Bari, Giuseppe, vai in culo, ci vai tu, Giuseppe da Bari, vai, Giuseppe. Pronto, buonasera. Dimmi. Ho ascoltato quella notizia che viene da Firenze, no? Di quell'uomo che è stato contattato. Mi è venuto in mente di raccontarvi quello che è successo a me. Sì, sì. Perché in Italia purtroppo lo sanno tutti che funziona così. In questo volevo dire a Parenzo. Cioè, no, non sempre, perché, per fortuna. E vi spiego perché. Ah, io in questo caso sto dalla parte di questo padre di famiglia che ha difeso la figlia. Sì, ma guarda che usare la pistola o usare le mani. Vabbè, a parte che è un po' diverso. È la stessa cosa. Comunque no, si è trova le mani nude a difesa. Beh, no. No, anche in termini di offesa è diverso, se gli avesse sparato la condanna forse sarebbe stata molto più elevata. Ma quello elevata. Non doveva essere proprio nemmeno processato, forse non è capito, e nemmeno su questo processato. Possiamo essere d'accordo. Ma e su questo hai sempre detto che il processo d'accordo. Ci vuole, adesso ci ha ripensato. Ho detto dipende dalle circostanze, il fatto che non fosse armato per me comunque è un elemento, ma che vedrai ne sa che anche nel procedimento ma è che così. Ne sa quello se non è armato o no, che ne sa Giuseppe, no, ma quello che ha picchiato il tassista aveva un coltello in mano, aveva un coltello, come fai a saperlo, come fai a sapere se uno c'ha il coltello o no dentro casa, cazzo. Giuseppe, dimmi. No, vi spiego perché lo sanno tutti. Allora, io ho un'attività. Un giorno, un bel giorno, mi sono allontanato, eravamo io e mio socio dentro, mi sono allontanato. Al mio ritorno, sì, io ho trovato una persona dentro che stava effettuando una rapina con la pistola e stava fuggendo. Sì. Io in quel momento, diciamo, non mi sono neanche reso conto che lui fosse armato, quindi l'ho bloccato così in maniera coraggiosa, però cioè non avevo allora? Visto che niente, l'abbiamo bloccato, l'abbiamo pestato. Quando siamo andati pestato, che vuol dire? Che gli avete fatto? Gli abbiamo rotto il labbro e forse anche un po' il naso, li sanguinava, eccetera. Sì, ma pesantemente? Pesantemente o no? Pesantemente, sì. Poi è arrivata la polizia, eccetera. Siamo andati in questura. Quando siamo andati in questura, i poliziotti hanno consigliato di scrivere nel verbale che avevamo le telecamere di sicurezza spente. Perché la persona si stava già medicando e stava già denunciando che noi lo avevamo pestato. Allora lui ha detto: fate così, dite che avevate le telecamere spente, perché così, sennò questo così non vanno... mettere guai. Cioè la polizia, com'è finita la storia? Com'è finita? No, fortunatamente questo non ha fatto niente. Cioè la polizia ha consigliato di dire una cazzata, ti rendi conto? Dire una cazzata per non mettere in mezzo questi qua. Lo sanno anche loro come fermo va là, fermo. Ehi, Cruciani! Quanti soldi devi avere dalle leggi? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andate a fanculo! Parenzo! Ehi, Cruciani! Ma che è successo? Ma perché scusa, andate a fanculo! La zanzara. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Naturalmente. Guarda, io ti denuncio, Vai tu, se vuoi parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Senti, dottor Coglione, Parenzo ebreo di merda, io ho 6 anni, quando vedevo le gambe della casa mi diventava duro. A 11 ho cominciato a tirarmi le seghe 3 al giorno, mattina, pomeriggio e sera. A 17 sono andato per la prima volta a puttane sulla Paolese. E a 43, 50 me ne andavo anche con delle escort gratis, perché a me 3 escort me l'hanno data gratis. A te nemmeno pagarle, frocio di merda, antipatico, sgradevole, ripugnante, cesso, con occhiaie da zombie, il naso quillino che ti pisce in bocca, i capelli tinti e i denti di plastica, coglione! Tito? Tito? La furia di Mauro contro Parenzo. Io non capisco, non capisco perché le persone si vogliono rendere ridicole da sole. Questo non... Ha detto anche che si masturbava 3 volte al giorno. Questo potrebbe anche dare una spiegazione a molte cose, no? Cioè... Beh, sì, ma quella forse è la cosa più normale che ha fatto in vita sua. Quel cumulo di ossa e di carne lì messo insieme a caso. Cioè, poveretto, ma mi dispiace perché si rende proprio ridicolo da solo. Ripeto, rivolgo l'appello agli ascoltatori, non ai telefonisti della zanzara, andate a vedere su Google la faccia di sto Mauro da Manto e giudicate voi. Io voglio essere oggettivo su questo, giudicate voi. Allora ragazzi, io nell'intervallo di questa trasmissione, nel lunghissimo intervallo di questa trasmissione, ho buttato l'occhio su, che ne so, Sky TG24. A un certo punto ho visto comparire la scritta allarme fascismo. Allarme fascismo. Poi si vedevano le immagini di 4 signori con la testa rasata, 4 coglioni, ecco, ripeto, con la testa rasata, e che entravano dentro un'associazione. Che facevano irruzione. Vabbè, come vuoi tu. Commettevano un atto violento. Però non mi sembra che quando occupino le scuole, quando occupano, quando fanno cortei non autorizzati, hai la stessa furia, hai la stessa carica. Semplicemente perché questi hanno la testa rasata, solo perché hanno la testa rasata. Ma le cose vanno anche contestualizzate. Ma che valore diverso. invece sono occupazione, un corteo non autorizzato dai, infatti spesso viene sanzionato. Vabbè, va bene, ho visto le immagini di questi quattro signori che entrano dentro uno scantinato, un appartamento, non so che cosa, dove c'era una sede di un'associazione a favore dei migranti, pro migranti, diciamo, un'associazione di queste ONG, dicono due cazzate peraltro incomprensibili, se ne vanno pronunciando delle parole, mi sembra, dicono adesso potete cominciare ad andare contro la nostra patria, una cosa di questo è tipo. È un atto intimidatorio. Senti, ma come si fa a non capire? No. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria e la nostra città. Grazie. Noi vi abbiamo rispettato. Cioè, capisci, no? Capisci che siamo, capisco che è siamo un atto intimidatorio, violento. Ma che altro? E per te è folklore, va bene, per te è folklore. A un certo punto quelli si... Com'era folklore quando mettevano le stelle gialle sui negozi degli ebrei? Ma non dire folklore, cazzate, lì c'era un movimento generale. E questi sono gli stessi. No, aspetta, io non voglio dire che questi qua non vanno sanzionati perché sono entrati in un posto dove non dovevano entrare perché non è casa loro. Se tu non sei invitato... è un atto aggressivo, intimidatorio, aggressivo di cosa? Hanno letto un programma e se ne sono andati. Questi ridevano, poi a un certo punto una dice li vogliamo accusare anche di apologia di fascismo. Certo, se hanno detto qualcosa va benissimo, ma di che cosa? Hanno fatto un proclama ridicolo sul fatto che non ci deve essere l'immigrazione. Ma cosa devono fare di più? Vestiti di nero. Ma che vuol dire vestiti? Anch'io vado vestito di nero. Ma cosa c'era? Tu perché sei sporco, i vestiti sono sporchi e quindi sono neri. Ma quelli lì vestono neri, teste rasate, rievocano le camicie nere. Ma rievocano roba qui fanno. Sono quattro... Hanno gli scarboni da militare. Ma che insomma, cazzo vuol dire? Pure mia figlia c'hai mai delle dottor Martens? Penso che tua figlia però inciti alla superiorità bianca. Ma quello un altro hanno fatto questo. Allora, escluso il fatto, le ipotesi sono due. Era carnevale? No, perché se era carnevale dice erano vestiti da nazisti, vabbè, è carnevale. Ma siccome non è carnevale, quelli vestono così tutto l'anno, beh, evidentemente qualche cosa ci sarà. No? Sì, però ragazzi, bisogna anche ridimensionare. Perché se ieri era carnevale, dice, torna io sono disposto a rivedere il calendario. Torna il fascismo. Ma ieri, se torna ieri era giovedì grasso, ieri? Era il martedì grasso, ieri? No, non era martedì grasso, non mi risulta dal mio calendario. Tanto non lo capisci. Ma il mio calendario non mi dice che era martedì grasso. Antivaccinisti, ieri. Dove siete? Siete contro i vaccini, vi faccio sentire un piccolo audio che vi farà incazzare. Tra l'altro volevo comunicarti questo. Ieri ho fatto il vaccino anti-influenzale. Faccio il vaccino anti-influenzale. L'ho fatto anche quest'anno. Ieri ho fatto il vaccino anti-influenzale. Non hai paura della roba che ti metti dentro, no? Per carità. No. Burioni, il medico, come sapete, che ha fatto anche un libro. Bravissimo. Senti, i vaccini sono tra le cose più belle della scienza. Pensa quanto fa incazzare questa frase quelli che sono contro i vaccini. È uno scienziato. No, per carità, ma... I vaccini sono tra le cose più belle che ci ha dato la scienza, hanno salvato milioni di vite, sono i farmaci più sicuri che abbiamo, quindi è bizzarro. Nicola da Bari, vai Nicola, vai. Bravissimo Burioni, leggete il libro La congiura dei somari. Nicola da Bari, non fare pubblicità ai libri. Ai libri si può fare pubblicità. Leggete La congiura dei somari. Non leccare il culo come sempre. Leggetelo, è uno scienziato. Nicola da Bari, vai. Ma quello mi ruba spazio, Parenzo. Ti ruba spazio, non mi sembra. Nicola da Bari, prego, parla. Grande argomento, vai. Sto zitto. Una cosa, siccome il meridione viene sempre più bastonato, sta andando sempre allo sfascio. Sì, sarebbe ora, visto che c'è questo spirito, di chiedere la separazione dal nord. Giusto. Secondo me andremo meglio. Ho rubato spazio a questo che chiedo scusa. Sì. Non ho capito cos'è che deve fare il meridione, si deve staccare dal nord? Certamente. Ma naturalmente, certo. Va bene. Scusami. E tu avresti tolto spazio a Parenzo? Avresti tolto spazio a Parenzo? Comunque i venetisti, gli indipendentisti veneti sarebbero d'accordo con lei. Appunto. Allora quindi uniamoci. Allora, scusa, tu vorresti in sostanza il regno delle due Sicilie, una cosa di questo tipo? Bravo. Ma meglio. Vorrei Federico II. Sì, Federico II. Però non c'è. Non c'è più. C'è un discendente. Da dove sarebbe? Dove sarebbe questo discendente? Mi faccia spiegare. Chi è questo discendente di Federico II? Lo spieghi. Me lo spiego. Tempo fa è venuto l'araldica e mi ha buttato. Dice, lei è un discendente di Federico II, voleva soldi. E l'ho mandati a fare in culo, perché è la solita truffa, no? Sì. Dice, mandati a fare in culo. Sì. A un certo punto questi hanno usato un'altra tattica. Sì. Mi mandano Federico II in sogno. Sì. Ma ogni giorno me lo mandano. Chi? Ma no, chi glielo mandano? La manderanno a fare in culo, non ho capito niente. Dai, io. Stai zitto, che tu sei ricchiune, ne ho la prova scientifica. Ma Nicola, adesso questo sta evidentemente scherzando, questo qua. Allora, me lo mandano sempre in sogno. Per ma chi te lo manda in sogno? Ma chi te lo manda in sogno? No, l'araldica. Ma quale araldica di cosa? Ma fammi finire il discorso. Ma non c'è nessun poi... discorso di araldica, non c'è nessun discorso. Dunque, saresti... Fammi finire, che è importante. No. Fabrizio da Roma. Pronti? Dimmi Fabrizio, dimmi. No, volevo semplicemente aggiungere al tema precedente che recentemente, adesso non ricordo chi fosse lo scrittore a cui è stato impedito di presentare un suo libro, non so se era Dottor Monti o Sgarbi, che sono entrati appunto nel locale. Ma quello se uno vuole denuncia per interruzione di servizio, violenza privata, sti cazzi. Ma sto dicendo... Cioè, una piccola associazione a favore dei migranti, entrano quattro coglioni, leggono un proclama, vestiti di nero. Sono un atto di violenza. Ma sta tornando il fascismo? Sta tornando il fascismo? Stanno tornando episodi di intimidazione. Stanno tornando con le sue differenze. Ma per una vita hanno occupato università con la gente che voleva studiare. Non avete mai detto un cazzo, vergogna! Non avete mai detto un cazzo. La gente voleva studiare e avete occupato l'università in nome della rivoluzione del comunismo di merda. Ma vedi, ma quale rivoluzione? Lei recita così bene la parte del bastian contrario. E basta con questa storia. Che quasi sembra che non la fa poi. È una cosa incredibile. Adesso io non voglio difendere quei fascisti, quei nazisti che mi fanno orrore. Sono quasi costretto a difenderli, a dire che non c'è nessun allarme fascismo per una vita. Avete anche tu occupato università, luoghi pubblici in nome del nulla. E adesso rompete i coglioni perché quattro imbecilli e gridate al fascismo perché quattro imbecilli entrano dentro un posto, leggono una cosa, se ne vanno e quelli si mettono pure a ridere e poi fanno la cosa, allarme fascismo, ma andate a fare in culo, dai, su, Abramo da Udine. In aumento episodi di questo tipo, molto violenti, dai, di intimidazioni. Ma quale molto violenti? E quelli si sono messi a ridere quando se ne sono andati. Poi magari hanno fatto violenze altrove e venissero condannati per quando fanno violenze altrove, va benissimo, ma non è che ieri hanno fatto... Se ti sembra normale questi episodi... Ma non è, ma è non normale, ma... Ragazzi, ma veramente state... Dove cazzo vivete? Ma aumentano ci sono... questi fenomeni, Aspetta, fermola, se alzano la testa. Oggi sarò qui! A Monte Cesario, se tutti se avete coraggio scendete a parlare con me, diritti e doveri, migliore, vergogna, e io parlo con la generazione dei nostri imputi. Se tutti, e io parlo con la generazione dei nostri imputi. Ho strappato l'Inps! Siete due clown pagati da Confindustria. Mi fate schifo. Cruciani, quello con i problemi sei tu. I denti uno se li può lavare normalmente invece che rimanere schifoso e sporco come sei tu, con quei denti gialli schifosi che hai, lercio. Ma Cruciani, ma quando dici che il tizio a Napoli se l'è cercata perché andava in giro con un Rolex da 25.000 euro, non ti pare uguale a quelli che dicono che le povere ragazze stuprate se lo sono cercata perché, beh, andavano con la minigonna, andavano succinte? Ma stai attento, Crucia. Mi pare una grande cazzata, sono due cose completamente diverse. Non ho detto che quelli se la vanno a cercare, ho detto semplicemente che se uno va a Napoli con un, non era un Rolex, pare un Patek Philippe, mi dicono, no? Come cazzo è la marca lì francese? Patek Philippe, Patek, certo, Philippe, un ottimo orologio, 25. Io non ce l'ho, ma... No, ma perché... Patek Philippe, comunque. Patek Philippe, là, come cazzo è? Era un orologio di quel valore lì, a mio parere, per il mio non è che uno se la va a cercare, non ti puoi stupire se girando per Napoli o anche facendo solo quattro passi con un Patek Philippe, come diavolo si chiama, poi arriva qualcuno che ti punta una pistola in bocca, non ti puoi stupire, dice oh Dio che cosa è successo, eravamo in via Monte Napoleone, dove può avvenire anche lì, per carità, esatto. Cioè, esatto. Non è una novità questa roba qui. Se vai negli alberghi a Napoli, ti dicono, proprio ti danno delle istruzioni al riguardo. Ti dicono, guarda, qui c'è la cassetta di sicurezza. È meglio che lei il Rolex, una cosa di valore, la lasci qui. È preferibile sia così. In altre città non te lo dicono. Ci sarà una differenza o no? È chiaro, no? Non è così bizzarra come cosa. Non significa essere contro Napoli. È la realtà. Ti danno un consiglio se vai negli alberghi a Napoli. Cosa devo fare? Se uno dice, guardi, il suo Rolex... è meglio che lei lo lasci chiuso nelle cassette di sicurezza, no? Allora, eravamo con Abramo da Udine, vai, Abramo. Buonasera, volevo parlare con Parenzo. Sì, mi riferisco al suo comportamento maleducato, no? E almeno molto, così, sì. Da quello che sento nei locali, l'antisemitismo grazie a lui sta aumentando, perché si è professato ebreo e la gente nella loro ignoranza praticamente generalizza, sì. Tutti gli ebrei sono sentito, come Parenzo, dove e ha mi sentito meraviglio come nei locali capo questo. Di Roma non prende provvedimenti. Buonasera. Ma non ho capito, Abramo, no, scusa, buonasera che cosa? Buonasera cosa? Non ho capito, buonasera cosa? Non ho capito che c'entra il rabbino capo cosa? Abramo, dimmi. Oh, Abramo, richiamatemi questo imbecille. Samuele da Milano, vai, Samuele. Ciao Cruciani, senti, sono molto d'accordo quando dici che con quel professore che dice che la scienza ci ha regalato questa meravigliosa invenzione dei vaccini. Sì, ma cosa vogliamo dire dei politici che invece hanno inquinato il lavoro di questi esimi meritori tutti di Nobel che ci hanno permesso di sopravvivere, di evolverci oltre certi virus? Perché comunque certi vaccini hanno portato elementi intolleranti che hanno dato sì, però non gente... voglio riaprire la questione dei vaccini. Cosa vuoi dire? Spiegami. Non ho capito che cosa vuoi dire. Non voglio riaprire qui la discussione sui vaccini. Che cosa vuoi dire? Spiegami. Questo, che è la classe politica che ha inquinato e permesso alla gente di avere dei dubbi su una cosa su cui non ce ne dovevano essere. Cosa c'entra la classe politica? In che senso? Imponendo l'obbligo del vaccino, questo vuoi dire? No. E no, che cosa? Facendo cosa? Non spiegami. Non testando dei prodotti. Ma ragazzi, ma cosa? Oggi, ma non lo testa crede la classe politica? Lo testa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Agenzia del Farmaco. La classe politica non c'entra. C'entra la scienza. Mario, da la classe politica ha semplicemente detto che per garantire l'immunità di gregge ha reso obbligatori alcuni Mario vaccini. Da Como. Hai capito? Mario da Como. Sentiamo Mario da Como. Pronto? Mario, dimmi. Fatica, ragazzi, che fatica. Dario, dimmi, dai, forza. Forza, volevo dire a Parenzo, volevo parlare un po' di fascisti. Allora... qualche anno fa qui a Como c'è sempre la manifestazione Parolario, dove doveva partecipare il Marcello Dell'Utri per presentare i diari di Mussolini. Sì, come no, ricordo bene. Quadracce di comunisti. Da dove stai chiamando, scusa Mario? Da dove stai chiamando? Col viva voce, con l'auricolare? Con che cosa? Con che cosa? Niente. Niente, vabbè, niente, ok, vai, su Mario, dimmi. Delle squadracce che hanno fatto, che cosa hanno fatto? I centri sociali non hanno lasciato fare la manifestazione. Ma questo è normale, quello che ho detto prima, io ragazzi. Ma ho capito, ma allora non rompete il cazzo, dai. E anche all'epoca qualcuno si arrabbiò, ovviamente. Ma chi si arrabbiò? Ma chi? E hanno sbagliato. Carlo da Modena, Carlo da Modena, vai Carlo. Sì, buonasera, io volevo ricordare che il peggior fascismo è l'antifascismo. Lo dice un uomo come Giampaolo Pansa. E credo valga un po' più di dare. No, tra l'altro, a proposito di Panza, parlando in merito di un episodio. Cosa c'entra questo? No, ricordo. Stiamo parlando nel merito. Fino quell'episodio lì si può condannare, sì o no? No, fino al 1938. Ma che c'entra adesso? Erano tutti fascisti. Ma che c'entra adesso? No, adesso non c'entra nulla, Carlo. Il punto come fondamentale è un altro. Lei ha ricordato prima Giampaolo Panza. Io ricordo bene che alcune presentazioni del libro di Panza sono state più volte interrotte da Udormio, da Lupi. Certo, non mi pare che ci sia stato la. Sempre. allarme fascismo. Sempre, dai. No, allarme fascismo no. Semmai allarme violenza rossa. Ma dai, si è detto, appunto, si è scritto. Ma Luigi Milano. Ma certo. Ma quale, chi l'ha scritto? Dai, su. Ma, guarda, vai a riprendere. Adesso perché devi fare le cose sempre a senso unico? Giornale di destra, certo. Luigi Milano, vai. Ma no, ma anche ma chiunque l'ha sempre detto. Chi può essere d'accordo con la violenza? Scusa, nessuno. Dimmi, di sano di mente. Vi avevo chiamato proprio per portare l'esempio di Pansa, di quando lui tentava all'interno dell'università di presentare i propri libri. A stupidaggine, non si risponde con stupidaggine, però questo non è il vecchio dibattito che si diceva, ma nel paese del Medio Oriente ci fanno costruire le chiese, è lo stesso argomento stupido. Parenzo, quando perdoni, ci dicono, le chiese però in Arabia Saudita non ce le fanno costruire, che vuol dire? Che allora sono più bravi loro? No! Che vuol dire? Qui stiamo discutendo di un gruppo di nazisti che ha fatto una cosa, giusto o sbagliato? Si può dire sbagliato, poi dice ma anche gli altri, anche gli altri hanno sbagliato. No, il problema è un altro, il problema è l'enfasi su questa cosa, allarme fascismo, non c'è nessun allarme fascismo. Posso dire la mia? Dimmi Luigi, dimmi. Grazie, ecco, stavo dicendo questa cosa, se cortesemente mi lascia parlare Parenzo. L'esempio di Pansa era semplicemente per dire questo, che molto spesso, anzi quasi sempre, all'interno dei media, che si tratti di giornali, di televisioni, cose di questo tipo, c'è un doppio pesismo che è insopportabile, perché è vero che sono quattro coglioni che fanno i coglioni e non lasciano stare la gente. Ma in realtà non è manco vero, perché hanno fatto spesso invece le cose vengono interrotte, non si può fare un caso, ci sono occupazioni perenni che producono danni allo Stato e nessuno dice un cazzo. Come no? Alcune volte è così, come no? Nessuno dice nulla. È assolutamente nulla. Vero, occupazioni di università, occupazione di spazi, tornando il comunismo. Ma no, ma nemmeno sta sono atti violenti su cui nessuno dice un cazzo. Sono atti violenti perché non c'entrano niente né col fascismo né col comunismo. Invece in questo caso sono quattro imbecilli che vanno dentro un posto, fanno un proclama e ci sono giornali e televisioni che aprono allarme fascismo. Siete patetici, siete patetici, via. La Zanzara. Andiamo avanti. Allora, caro David, voglio raccontarti una storia. Abbiamo qui un ospite, sai che sono molto appassionato a queste vicende della legittima difesa, di quello che succede nelle case degli italiani, nelle case e nelle proprietà degli italiani, è sempre bene ricordarlo. Allora, abbiamo Simone, che è un cinquantenne di Firenze. Buonasera, Simone. Buonasera. Allora, vuole raccontarci quello che le è capitato nell'estate di 2 anni fa, esattamente? Che cosa è successo? Il 17 agosto di 2 anni fa. Niente, praticamente io tornavo da in mare con la bambina piccina, perché dovevo venire a Firenze a fare delle cose. Quanti anni ha la bambina? Quanti anni aveva? Due Ora anni 12, fa? 2 anni fa ce n'aveva 10. 10, certo. E quindi, niente, il classico gelatina in piazza del Michelangelo, giratina, e si tornò, lei sarà stata intorno alle mezzanotte e mezza. Sì. Aprì casa, entra in casa, mia figlia fece per andare in bagno, a spogliarsi per andare a letto, e cacciò un urlo forte, e io un po' lì dissi, è successo qualcosa, ma facciavi di questa persona, questo ragazzo intorno ai 20-25 anni, che mi veniva incontro, mi ha detto, non ha spinta lui per scansarmi, per scappare, io però a quel punto sono sincero. E non c'hai visto più? No, e pensare alla bambina, non pensare né a me né a nessun altro, io pensavo alla bambina, io sono anche un ex calciante storico di Firenze. Cioè un ex del calcio storico di Firenze, del calcio... Del calcio fiorentino. Dunque sei uno grosso, diciamo, no? Sono piazzato. Cioè sei uno abituato allo scontro, diciamo, per gioco, esatto, però sei abituato allo scontro. Ho giocato ai derby, ho fatto tanti fucilato, che quello non è che mi manca le cose. Questo com'era, un ragazzino, com'era? Un rom, che era? Era un rom, avevo un 20-25 anni, però insomma anche lui non era tanto piccino, era ben messo. E poi sul momento tu che ne sai, quello magari aveva in mano qualcosa, una pistola, un coltello. Accidenti che c'aveva lui in mano, e io la mia reazione fu, come mi dette la spinta, reagì, gli lasciai partire subito un sinistro destro, gli spaccai il setto nasale, gli ho buttato giù due denti, e lui andò in terra, chiaramente, pensi un attimino sensi. E ma poi che è successo? Hai chiamato la polizia, dopo, i carabinieri? Li chiamarono il vicinato, perché sentirono nella cotulazione, fu rotto un po' di porcellana c'era nell'ingresso, ha visto vasi a fiori come tengano tutte le mogli delle case. E niente, fu chiamato la polizia e in giro di 5 minuti la arrivarono e fu chiamata a misericordia, portato via. E nulla, io ho avuto tua figlia progetto. Tua figlia nel frattempo che stava? Come stava? Mia figlia, insomma, un po' mi ci è voluto per fargli passare questa paura. È stato 2 o 3 mesi a dormire in mezzo a me e la mia moglie perché aveva queste paure, non voleva pensare sola. Anche adesso si ricorda di quell'episodio a 2 anni di distanza? A poi l'anne sì, anche perché è stata seguita da uno psicologo di Maier, capito? Addirittura uno psicologo per fare? Sì, perché lei come si avvicinava a un extracomunitario di colori o non colori, bastava fosse un extracomunitario, lei si stringeva a me o alla mia moglie, io tutta un po' rita. Allora, a un certo punto, arriva la polizia e parte il processo, incredibilmente secondo me parte il processo. Parte un processo per lesioni, per che cosa? Io sono stato accusato eccesso di legittima difesa? Di lesioni gravi verso questa persona. E cioè, qui abbiamo, scusami se ti interrompo, no? Certo, qui abbiamo un ladro, Parenzo, un ladro, chiaramente un ladro, che si intrufola dentro casa. Arriva un padre e una bambina di 12 anni, di 10 anni. E trovano questo qua in una stanza. La bambina urla. Un padre, certamente abituato allo scontro, non è uno che si tira indietro, ma non è che hai dei precedenti per lesioni? Assolutamente no. No, cioè non sei uno che mena la gente per strada, no? Cioè, no, io sono un magazziniere, cioè mi lavoro e lavoro tranquillamente tutto il giorno e quindi non vuoi cercare risse. Becca questo ladro e gli mena, ma lei hai un po' insistito, hai un po', come dire, ci sei andato giù pesante, dimmi la verità. Pesante ci sono andato, ho detto io gli ho rotto il setto nasale subito e poi gli ho buttato giù due denti e lui l'ha picchiato la testa in te, tanto è cascato. Ma gli hai detto pure qualcosa, pezzo di me, cioè lei... Un po' l'ho insultato, sì. Non ripetere. Vabbè, ma non è quello il punto, insomma, lei gli ha dato una bella lezione sul posto, diciamo. Quello sì. Io capisco lo stato di paura. Capisci lo stato di paura? Allora non ho capito. E ha agito in un contesto di paura per difendere la figlia, quindi ha fatto bene, ha fatto distinto. Non è che c'è stata una persecuzione che lo ha... Aveva paura in quel contesto, quello si è truffato in casa e ha provato a difendersi come poteva. No, ma la cosa incredibile è un'altra, perché inizia il processo. Non è che ha sparato, questo voglio dire. Ma è uguale, mani o pistole per me è uguale. Si è difeso a mani nude in quel contesto lì, lo capisco. La cosa incredibile, secondo me, è che da quello che ho letto, è che tu poi subisci un processo e già siamo alla follia per questo processo per queste lesioni aggravate verso di lui che ho detto. Si presentò anche in carrozzina questo signore in tribunale. Come si è presentato in carrozzina? In carrozzina, ti giuro, si presentò in carrozzina accompagnato. Tanto per fare intenerire i giudici, non dico, e c'è riuscito perché c'è riuscito. Il problema è che io mi sono beccato 1 anno e 6 mesi di condizionale e 7 mesi all'arresto domiciliare. Cioè tu avevi... Ma la cosa incredibile è questa, ragazzi, questa è l'Italia. Lui mi è toccato a pagare, lui aveva chiesto 3.000 euro di danni, per fortuna mi ha avvocato da 3.000 euro e è riuscito a portarlo a 1.500 euro. 1.500 euro è quasi... Sì, ma lui sarà stato condannato per... Lui non ha subito nulla, perché lui, io lo ritrovo anche in centro e camminava alle sue gambe. Lui non ha subito nemmeno un giorno di galera. Sì, ma per essere entrato in casa sua senza invito, avrà ricevuto una condanna, qualcosa niente, o no? Ma ne posso giurare sui miei figlioli, lui non ha subito niente, nessuna condanna. La cosa incredibile, 1 anno e 6 mesi per lesioni italiana. È la legge italiana, come no? È stato condannato in base alla legge italiana, non in base alla legge del Burundi, dove probabilmente gli avrebbero tagliato le mani a quello. Il magistrato evidentemente avrà interpretato male alcune so norme. Io non so che fatto il magistrato, io so solo che io ho pagato e lui no. Lo rifaresti, Simone? Reagiresti allo stesso modo? Ma cioè, sinceramente, mi ritrovassi davanti una persona solo in casa da bambina o anche con la mia moglie e quell'altra bambina, perché io ho 2 bambine, sicuramente sì. L'hai rivisto questo rom? Io lo rividi poco dopo il processo e ti ripeto, lui camminava in centro tranquillamente, lui mi riconobbe e oltretutto allungò anche il passo per andarsene perché fece bene a scappare, insomma. Perché? Ecco, diciamo, perché avessi rincontrato di nuovo, che avresti fatto? Non lo so, tu mi fai una domanda, ecco, ma quando tu mi tocchi la famiglia... Ragazzi, vai ai matti, ma è normale che sia così, cioè, diventi una belva, ma è normale, cioè... Capito? Ciao Simone, grazie, ciao, ciao, grazie a te. Ciao. Saluti. Ciao. Ora purtroppo non si può tornare indietro, no? Cioè non si può tornare indietro perché ha rinunciato, questa è l'unica cosa, ha rinunciato a fare l'appello. perché non voleva più parlarne, eccetera. Anno e rotti per avere picchiato un signore, un ladro, parentesi rom, dentro casa. Dentro casa, questa è l'Italia, ragazzi. Poi dice la legge sulla, poi dice la legge sulla, sulla legittima difesa va bene, c'è già. Col cazzo che va bene, col cazzo, scusatemi, col cazzo che va bene. Perché non è possibile. Caso per caso, ma certo, ma ragazzi, ma avete sentito cosa succede? C'è sulla legittima difesa. Ragazzi, come sai, uno può perdere la brocca di fronte al fatto che c'è una figlia, di fronte al fatto che vede un estraneo dentro casa. E giustamente questo era uno che ha fatto, giocava a calcio fiorentino, un calciante si dice. Che non è un mutante, è un calciante. E io questa mattina, quando ho sentito questa cosa su una radio locale, Lady Radio, ottima radio di Firenze, che fanno un ottimo programma la mattina, ho subito preso la palla al balzo, perché bisogna diffondere a livello nazionale queste schifezze della giustizia italiana in questo caso. Dai. Alessandro da Firenze, vai Alessandro. Ciao, pronto? Dimmi. Sì, ciao Giuseppe. Ascolta una cosa, ora la cosa che tra l'altro mi mette veramente in ansia è che se non ci fosse stato Simone a dargli quei cazzottoni belli, perché in casa mia, non mi fare dire altre cose, ma se trovo un ladro, come fate Giuseppe, te che faresti? Cioè, parliamo, uno si difende, allora, chiama la polizia, non lo so, si barrica in camera, che ne so, a chiamare il cellulare a dirgli polizia, c'è un ladro in casa, ma stiamo scherzando, cioè, Simone, per carità, ora lui perché era dotato, io non sono dotato, io mi cago addosso se vedo uno, però se vedo la mia figliola prendo una spranga e gli do nel capo, ma ti rendi conto, cioè ti rendi conto di che si sta parlando, è un casino. Le forze dell'ordine, poracce, loro si danno da fare perché sono tre volanti, quattro volanti, loro sono anche troppo bravi perché arrivano e vengano, ma è un casino. Metti di caso alle 9 la mattina che c'è il traffico, quello o quell'altro, come fanno a venire a fare un intervento veloce? No, ma certo, ma è impensabile, è chiaro. È un casino, cioè. Ora non è che voglio fare Simone un eroe. Ma no, ma che c'entra, no, poveraccio, manco, guarda, ti posso assicurare che manco... Spranga. Ora, perché Simone, cazzo, meno male gliela date, meno male, potessi dargliene io, se le dai... No, vai, calmo, che l'hai capito solo te, eccetera, ma non è che si possono dire queste cose qua alla radio, oh, Alessandro, calma, avrei paura. Manco se n'è accorto in realtà. Vabbè, no, ciao Alessa, dai, ciao. Mamma mia, che ambiente. Vabbè. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Io sono sicurissima che tu, come ti fai una scopata con me, sparisci. Ascolta, che tu ti sei allontanato, a me non me ne frega un cazzo, hai capito? Solo che impara a dirle in faccia le parole, vigliacco. Devi dirle in faccia le parole alle persone, hai capito? E cancella le mie foto, perché io ho mio cognato è un carabiniere, ti faccio vedere se cancelli le foto sì o no, hai capito? Cancella tutte le mie foto, stronzo. Hai capito? Oh, ma volevo sapere, non è che si può avere il numero di quelli che andavano alla gangbang? Che mi piacerebbe partecipare quando ci vanno la prossima volta. Prova un po' a informarti per piacere, Crux. Hey! Oh! Allora, caro David, ma chi è questa qua, hai capito? Di quale foto parla? Ma di che cosa è sta roba? Caro David, nei giorni scorsi, quando era qui ospite il signor Cateno De Luca, tu hai usato un'espressione nei confronti degli elettori di Cateno De Luca, sì, che è piuttosto forte, fortina. Sono pochi secondi, io ti farei riascoltare. Sì, caro va bene, David, volentieri, ti farei riascoltare grazie, molto, molto volentieri. Grazie, volentieri. Per le tue orecchie e quelle degli ascoltatori. Vediamo, grazie, altro odio, vediamo. Io mi vergogno di 5.418 persone che l'hanno votata. Mi vergogno di 5.000 e rotte persone che mi l'hanno votata. Specifico per no, quelle, che non c'è bisogno di specificare. Mi vergogno per quelle. Mi vergogno sì, per quelle. Sì, perché secondo te quelli che hanno votato Cateno De Luca in Sicilia sono degli imbecilli in sostanza. Sono dei minus abets. Non userei il termine imbecilli. Non lo userei. Come useresti? Sono degli sprovveduti. Sono dei minus abets. Questo può andare. Questo può andare molto bene. Allora, questo può andare molto bene. O delle persone che viceversa possono avere degli interessi a votare una persona che ha avuto delle prescrizioni, che ha avuto dei processi, che non che è un altro. Cioè sono interessate, dici? Cioè non lo è so, un voto di clientela, hanno interessi per posto so del lavoro, questa clientela, roba qua. La clientela è un'altra allora, cosa, perché la clientela presupporrebbe un rapporto diretto tra queste persone e l'eletto, cosa che io non so perché non sono in Sicilia. So che spesso in Sicilia c'è un rapporto diretto tra preferenze ed elettori. Vabbè, e che ma spesso è un processo. Purtroppo sì. No, dico, spesso purtroppo gli elettori, pur sapendo che le persone sono sottoposte a giudizio, li votano lo stesso. Questo mi incuriosisce e spaventa molto, perché se io sapessi che nel mio collegio ma c'è una persona candidata che è indagata per evasione fiscale, indagata, io personalmente non lo voterei. Dico solo questo. Vabbè, quindi allora, impresentabili non è un problema soltanto di chi si presenta, è un problema anche di chi li vota. Allora, dopodiché, se li volete votare, continuate a votarli. Allora, mi scrivono diverse persone, tra cui una tale Francesca. Sì. Signor Parenzo, sono un'elettrice di Cateno De Luca e volevo rassicurarla che non me ne vergogno, anzi ne sono fiera. Benissimo. E lei non lo conosce, non conosce quanto bene ha fatto delle località che hanno avuto la fortuna d'accordo di averlo come sindaco, la invito a conoscere tutta la storia, eccetera, eccetera. Un altro che si chiama Giovanni, io e la mia famiglia e molti amici siamo tra i 6.000 che hanno votato l'onorevole Cateno De Luca, siamo persone comuni, diplomati e laureati, con lavori a tempo indeterminato, disoccupati oppure precari. Oggi sentendo la telefonata mi domando il perché ancora lei insulti un elettorato punito che ha votato liberamente perché conosce la storia e i fatti giudiziari. Fatto una riflessione. Ancora un'altra che dice, trovo offensive le parole del signor Parenzo rivolte agli elettori di De Luca, io vivo a Messina e certo lui, rispetto a lui conosco le dinamiche di una città, sono una dei 5.500, se vuole mi contatti, venga a Messina, non sono assolutamente, non mi devo vergognare di niente. C'è un sacco di gente che dice, chiedi scusa a 5.500 elettori per avere detto che loro si devono vergognare. Non c'è da chiedere scusa, c'è da capire perché l'ha Yuri fatto. Yuri da Roma, Yuri da... perché l'ha fatto? Ma sarà perché pensano che quello sia, possa essere un bravo amministratore, che cazzo ti voglio dire? La gente ha votato... Buonasera. Dimmi, Yuri. Tu l'avresti votato una persona che ha dei procedimenti? Ma no, te lo chiedo se tu uno ha dei procedimenti in corso, io ho votato anche condannati, che mi frega. Bravo, ho votato bravissimo. Penati a Milano quando era indagato. È stato totalmente assolto. Ma però l'ho totalmente votato quando era indagato. Dunque, totalmente assolto. Ma che c'entra quello totalmente dopo? Assolto. Quello dopo, Yuri, vai, dimmi. Ragazzi, buonasera. Dimmi. Allora, senti, ma mi hai detto prima dell'associazione della marijuana, che è quella roba? Non ho capito bene, allora Yuri, questo ho detto scusi prima, questo non è uno spaccio, però è la radio della Confindustria, non vendiamo marijuana, droghe pesanti, droghe leggere, questa no, è una radio, no. Se lei vuole comprare della droga, ma che ma perché dovrebbe comprare della droga? Ha detto due parole e ha detto subito che deve comprare la droga, scusa, no, perché non ho capito. Ma infatti, sembra io, massa come, pensi sempre male, sicuramente sapere. Qualche canna te la fai, Yuri, secondo me, perché sei un esempio, però devi darti una calmata, secondo me qualche canna la bocca un po' impastata, per quello dicevo, mi sembrava sì. Magari vuole raccontarci una storia interessante, Yuri, scusami. Sì, siamo a disposizione. Scusami, allora, prima dicevo che in America sostengono un'associazione, uno studio di non so che cazzo di posto, dice che nella vita non si raggiungono gli obiettivi, cioè si arriva, non si ha grande successo se uno da adolescente ha consumato marijuana oppure anche alcol. Sì, io volevo confermare questa cosa, è verissimo, ragazzi, è vero. Cioè, ma sei un esempio vivente, tu dici, di questa cosa? No. Cioè, oddio, spero di no, anzi, prego, perché... Cioè, quanti anni hai, scusa? Quanti anni hai? 26. Quante canne te fai? Oggi è la prima, ho 9 ore che sto davanti al computer e questo è il momento ricreativo adesso. Facci sentire un po' la boccata. Facci sto a posto, raga. Bravo, Yuri, scusa, quello è questo. Ma vedi che però allora avevo ragione a dire però, che... Scusami, Yuri, fammi un attimo, fammi sentire un po' una boccata. Gli è presa questa... serena, vedi, gli è presa guarda, bene. Stasera... stasera, guarda, mi trovo, cioè, se incontriamo in un momento veramente fortunato, perché prima ho beccato Asim, che mi ha dato un, Asim, no, è nome di fantasia, sì, che mi ha lasciato 10 euro di un fumone buonissimo, fumo. Sì, fumo. Fumo. Sì. Poi, fumone. becco l'altro amichetto mio che c'ha l'erba a casa, ragazzi, e cioè è qualcosa che mi ricorda Barcellona addirittura, quindi perché Barcellona? Che ci sarà dell'erba buona? Sono state scene bellissime, raga. Se sei andato a Barcellona, te sei tiro fatto canna a testa, un tiro di canna a testa, eravamo tipo una decina di persone, campo scuola, sì, un tiro solo a testa, se guardiamo in faccia ridemo come matti, calcola, cioè spettacolo, qualcosa di unico, raro. Cioè, posso soltanto ricordarle che sono le ore 20:07 della radio della Confindustria, questo qui, volevo soltanto dirle questo. Beh, allora che cazzo c'è per no, voglio dire, però, che scusami Yuri, non ho capito una cosa, allora qualche imprenditore si mette all'ascolto e dice, oh, se famo una ganna, in oh, tiriamo momento, una bomba. Dicendo, bono, aspetta un attimo, bono, aspetta, bono, aspetta un attimo, fermo un secondo, fermo. Pronto? Dica. Buonasera signore, possiamo parlare adesso? Sono una ragazza da Telecom. Sì, da Telecom, ma da dove chiama, scusi, da Telecom? Da Varese. Da Varese, bene, non mi pare la voce varesina, comunque bene, uguale, mi dica tutto. È una lavoratrice. Mi dica. Lei, allora, la chiamo per quanto riguarda il telefono fisso a casa, anche a DSL. Io non ce l'ho. Con quale gestor... Non ce l'ho il telefono fisso a casa. Per avere... No, non lo so. No, è un taccagno. No, scusi un attimo, in questo parla più veloce. No, perché lui è un taccagno, non paga neanche le bollette. Scusi un attimo, in questo momento sto cagando, so il cesso, che faccio? Tiro lo sciacquone oppure mi alzo? Oppure continuo a cagare? No, allora io sto dicendo, se lei è interessato, vedi, Luca, per entrare in Telecom sia fisso anche per l'internet a casa. No, può darsi che mi interessi la cosa, ma in questo momento sono impegnato, sto cagando, tiro lo sciacquone, okay, oppure continuo a cagare, mi dica lei. Ok, allora scelga lei, che faccio? Tiro lo sciacquone, signore, che faccio? Dimmi. Mio. Mi dica lei. Quando lei è disponibile, non lo so, guarda, guarda che educata domani, che va bene, ripeto, adesso non vuole continuare, che faccio allora? Tiro lo sciacquone oppure continuo a cagare dentro al culo. Ma come vaffanculo, scusa, ma glielo dici tre volte, la poveretta, scusa, perché devi umiliare così le persone, scusa, umiliare, stai umiliando una lavoratrice, poveretta, alla quarta volta. Alla quarta volta ti ha mandato a fanculo, c'ha ragione. Ma cosa manda a fanculo? Scusa, cosa manda a fanculo? Ma c'ha ragione, alla quarta volta che gli dici cagare, diceva vaffanculo, scusa, Ma questa c'ha ragione tutta la vita. Un'altra da far cacciare. Ma tu sei da far cacciare, perché fai licenziare le persone e ti prendi gioco della gente che lavora, poverini, delle persone che fanno un lavoro io che mi non prendo è il gioco. Tuo. Io mi prendo gioco. Eh sì, dai. Non fanno un lavoro fortunato come il nostro, stanno lì al telefono a parlare con degli stronzi. Ma come questi te. Poi della Telecom, come cazzo ce l'hanno i numeri di telefono? Mi ce spieghi hanno, come tu cazzo non hai il telefonino? Ce hai il telefonino, tu come? Hai qualcosa come che paghi? Hai qualcosa che paghi o non hai mai niente? Ma che c'entra, scusa? Dai. Poi gli ho detto che non la voglio, quando la posso chiamare? No, non mi dovresti chiamare, dico. No, gli hai detto sono interessato, ma sto cagando. Quella alla quarta volta che gli dici stai cagando, ti ha mandato a fare in culo, ma troppo poco ha fatto Yuri. Yuri, oh. Yuri Checchi, Yuri Checchi, ragazzi, insomma, mi sto a fare un cannone terribile con erba e fumo, dicasi messicano. Senti, Parenzo come conosce tutto, messicano. No, certo, Parenzo conosce tutto. Che è un mix fenomenale. Sì, ma facci sentire un po' una boccata di questo. Allora, aspetta. Posso dirti una cosa? Aspetta, fallo tra due mani, no? Voglio dirgli questo. Io, da ragazzi, fallo tra due mani, in modo che poi lo respiri tutto, tenendo le mani a caste chiuse come in preghiera, fratello? Aspetta, sta accendendo la canna, aspetta. Fratello, metti le mani in preghiera e assorbilo tutto con le mani tipo in preghiera, così ti rimane ancora di più. Già start up, raga, quindi... No, come in preghiera, le mani chiuse. Aspetta, fammi un'altra aspirata, vai, un'altra aspirata. Vai. Pesante. Era forte? Sì, è fortina, basta, regà, basta. Ma come basta? No, mamma, che botta, vecchio mio. Sì, tocca... Che botta, vecchio mio. Ma infatti, cioè, io predico pure, ogni tanto razzolo, faccio qualcosa, niente, volevo confermare sta cosa, perché... Cioè? Un conto è l'uso, un conto è l'abuso. Cioè, se io mi mangio un chilo di pasta tutti i giorni, poi che divento un panzone o no? Ma un chilo in ogni caso, cioè, e poi mo, se tu vuoi essere tossico, allora ti realizzi come tossico. Cioè, tu dici che alla fine, pur facendoti le canne, tu quante te ne fai al giorno più o meno di media? Una perché è un periodo. Perché altrimenti di più? No, io sto cercando di smettere, cioè mo oggi lo dico qua a radio, capirai, domani sto con un pacchetto intero, vabbè. Comunque niente, io sto cercando di smettere, quindi niente, sta storia deve finire, perché è un momento ricreativo, sì. Cioè tu te fai una canna, perché cioè, io sto 9 ore davanti al computer, sto impazzito, ho bisogno di un attimo di sdraiarmi. Ma davanti a che cosa? Che copione, che fai? Faccio musica, anzi con i miei complimenti al signor Lacorte, perché è veramente un grande. Però non fa in cazzo, musica. In sostanza non fa in cazzo, diciamo. Non faccio un cazzo pratico, mo perché sto domenica. Però inventi tempo, no? Così, cerchi di inventare, e un lavoro creativo. Quindi faccio l'artista, mo sto un po' a casa e faccio l'artista, capito? Questo è quello che fanno tutti, faccio l'artista a casa. Ecco, io quattro sì, però, non fa lì perché ho degli obiettivi, capito? Però dico, va bene, d'accordo, per carità, però tu stai confermando una cosa, e confermi quello che ha detto questa ricerca, col passare del tempo, fa male, regà, cioè io te ripeto, la pasta, se te fai un chilo di pasta al giorno, niente in panzone, te fai 10 grammi al giorno, che vuoi diventare? A te, cioè, che danni provoca questa marijuana, questo fumo? Pigrizia. Delle volte mi rendo conto che sono pigro, e una volta ne ero così. Lo so. Ciao amico mio, ciao Yuri. Ciao regà, buonasera. Ciao. Della serie Sti Cazzi, vi leggo un passaggio del libro del signor Di Battista. Guarda che ci sono delle perle incredibili nel libro di Battista. No, ma senti questa cosa. Sì, certo. Ormai sicuro di me, a te piacerà questa cosa, ormai sicuro di me, gli ho spalmato la pomata sul sedere e sul pisellino. Poi gli ho rimesso il body e la tutina con gesti rapidi e risoluti. Il problema è che, complice il sonno e l'eccesso di sicurezza, mi sono dimenticato qualcosa. Ho riconsegnato il bambino alla mamma con grande fierezza e sono andato a fare il caffè. Credo che tu gli abbia messo male il pannolino, mi ha fatto notare Sara. Guarda, ha tutto il pigiamino bagnato. Il pannolino, ho ripetuto io. Il dubbio e il terrore si sono insinuati in me. Beh, no, il pannolino. Ecco cosa mi ero scordato. Sara, mi sono dimenticato di mettergli il pannolino. Sara si è messa a ridere mentre io mi sono sentito un pessimo genitore. Cose che sono accadute a tutti noi, che abbiamo fatto. Ma di che stiamo a parlare? Ma di cose cosa che sono accadute a tutte parlare? Le persone normali, sai? Non ho sentito bene! E sti cazzi! Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì. Sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Guerrerami, merda, guerrerami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Ispiro come Macron. Ispiro come Macron. Ispiro vuol dire fatto da tante cose. La zanzara. Denunciami, Gremlis! Luciani, ma che figata è passeggiare da soli per New York con le cuffiette e la zanzara a palla! E la gente che mi scambia per newyorkese mi ferma, mi chiede le indicazioni e io gli rispondo: non me ne frega niente, la vedi quella berlina di Uber? Io adesso salgo sopra e ti guardo che non sai dove andare. Hai capito? Esiste solo la zanzara! Siamo al top! Someone calls. Il significato è questo: se io vado con una prostituta, faccio quel che devo fare, una volta pagata è finita lì, non ho più rottura di coglioni, torno a casa ed è finita. Se io una volta finito di far l'amore con mia moglie, magari mi rompe il cazzo, mi fai le coccole, mi vai di qui, mi fai di lì, e la mattina dopo è la stessa cosa. Se io vado da prostituta e non ho rotture di coglioni, mi sono divertito ugualmente, non ho rotture di cazzo, capisci lo coglione di Parenzo? Ma uno che parte da qua, da Milano per esempio, e tutti i fine settimana da solo prende la sua macchinina e va in Svizzera per scopare una prostituta, ma non è uno sfigato, scusa? Come si fa a dire, ah, ma io non voglio rotture di coglioni? Mica, ma più rottura di coglioni così, io devo prendere la macchina, fare 70 km per andare a fare una trombata e tornare a casa alle 3 di notte da solo. Ma che minchia di merda è? È pieno di donne, cazzo, vai in una discoteca a Milano, quarantenni, ne trovi quante ne vuoi. Ma come cazzo stai a Tipino? Tanchero, Buscetta, ti ho sentito. Sta Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci. Allora chiamiamo questi qua adesso, così almeno cerchiamo di capire che personaggi sono. Va, questi del Veneto, fronte skinhead, che hanno fatto l'irruzione a Como. Tra l'altro si sono spostati dal Veneto fino a Como. Si chiama Caracino il capo di questi non qua. Saracino, il famoso Saracino. No, Caracino, credo, Caracino. Non ci voglio parlare. Caro, ma perché non ci vuoi parlare? Nulla. Perché non ci vuoi parlare? Non è caro per niente. Ma perché non ci vuoi parlare? Ma perché non parlo con i nazisti? Ma adesso già è uno sforzo che parlo con i fascisti. Voglio anche che parli con i nazisti. Non ho capito. Ma cosa c'è di più? Ma non ma chi devi chiamare in più oltre a questi qua? Cosa c'è oltre questi? C'è un confine, una linea? E vediamo, se c'è, sentiamo se c'è. Dai. Pronto? Sì, Caracino? Sì. Buonasera, Cruciani, come sta? Buonasera, salve. Come andiamo? Benissimo. Come è andata questa storia qui dell'irruzione che avete fatto? Ma come si vede dal video? Nel senso, una normalissima ingresso in una SISE pubblica. Sì, no, perché pubblica era un posto privato di un'associazione. No. Era l'incontro era pubblicizzato sul sito loro. Sì, d'accordo, però non era un luogo pubblico, non era una piazza, era comunque un posto. Vabbè, ok, sì, era un posto chiuso, ma era un incontro non segreto, voglio dire, ecco, nel momento in cui no, ma non è questione di essere segreti. Voi siete andati a casa di altri per leggere un comunicato, giusto? Ecco, più o meno, se era a casa loro, sì, sostanzialmente volevamo portare il nostro punto di vista, ecco. Cioè, il punto di vista vostro quale sarebbe? In sintesi. No, perché siete contro l'immigrazione voi. Esattamente. Siamo contro quelle associazioni che ne favoriscono le dinamiche e facilitano l'immigrazione. Voi siete contro la società multiculturale, questo è il punto. Siamo contro l'appiattimento che porta la società multiculturale. Cioè, no, vabbè, sì, siete cioè voi, per esempio, aspettate. L'unione tra una aspetta, niente. Un attimo solo, fammi parlare un secondo, voglio capire perché protestavano. Poi io intanto con questi qua non voglio parlare. Ma primo, perché non vuoi parlare? È sbagliato telefonare e coinvolgere in una trasmissione in un paese io civile. Io voglio sentire tutti, voglio sentire questi tutti. Sono fuori dal contesto civile, è ma gente perché? Violenta. Ancora non capisci con chi parli? Tu hai dei precedenti? Dai credito a gente violenta. Hai dei precedenti? Questo è il problema. Non c'è democrazia e lo dimostrano questi signori qua. Io non so neanche la democrazia non comprende la violenza. La democrazia non comprende la vostra violenza. Capito? Se non sbaglio, la Costituzione recita che c'è libertà di espressione e di pensiero. Giusto? Sì, però scusami. Non citi la Costituzione, voi che ci avete sputato sopra. La Costituzione è stata fatta dai partigiani, dai comunisti e dai democratici. Cristiani. Però scusa un attimo solo. Voi dai comunisti è stata fatta voi la Costituzione. Siete firmata va dai bene. Comunisti. Va da bene. Togliatti è stata firmata la Costituzione. Un attimo. Da Togliatti. Allora io voglio capire una cosa però. Voi siete cosiddetti nazi skin? È un termine giornalistico. Comunque skinhead. Sì. Skinhead. Ma tanto per capirci, il fascismo ha fatto qualcosa di positivo nel nostro paese? Assolutamente sì. E il nazismo? Sociale, e il nazismo? Il nazismo nel nostro paese? No, nel nostro paese no, ma in generale ha fatto qualcosa di buono Hitler? Bah, A livello di riforme sociali e industriali direi di sì. Sì, c'è solo quello ha fatto. Cioè... Sì, ha fatto i campi di concentramento, erano delle grandi industrie infatti. Ci sono stati anche quelli, per carità, è vero? Sì, grandi industrie quelle. Quelle grandi industrie di Stato. Aspetta. La domanda è stata... Giordano, io non ho capito. Tu credi nei campi di concentramento? Credi nelle camere a gas? A me che sono maleducato. Scherzando. Hanno ammazzato 6 milioni di ebrei? Questo è quello che recita nel libro di storia. Io credo che la storia la scrivono i vincitori, questo è quello che è andato e dunque? E quindi forse andrebbe rivista un po' tutta la storia tutta 45 in avanti. Cioè che vuol dire? No, ma al di là di questo io voglio dire, ci credi che hanno ucciso 6 milioni di ebrei? Sì o no? Basta una risposta, poi andiamo oltre. Perché dal 45? Dice? Sono critico, diciamo così. Cioè, non pensi che il professore è critico. Lo skinhead professore è critico, ma è critico di sto cazzo! Allora, non credi che sono stati uccisi? Non credi che sono stati uccisi 6 milioni di ebrei? Dai, vieni a prendermi, forza, con i tuoi amici. Sei critico, vuol dire che ne sono stati ammazzati di meno. Ho detto che sono critico. Ma che ne sono? Ammazzati di meno, che ne so? Cioè, dico che la storia andrebbe ristudiata, andrebbe rivisitata tutta, nel senso, quindi ristudiata tutta quanta. Cioè tu dici che gli ebrei sono dei vittimisti da questo punto di vista? Io non ho detto questo. Mussolini è stato un grande statista, sì o no? Beh, tutte le riforme sociali che ha fatto, dall'introduzione delle pensioni, la previdenza sociale, Che ha sbagliato? Che ha sbagliato? A perdere la guerra fondamentalmente. Cioè era meglio se vinceva, dici tu? Secondo me sì, ma comunque. Vabbè, comunque segnaliamolo alla polizia, questo gruppo. Ma che polizia? Lo sanno già, ma lo conoscono già, li conoscono tutti. Facciamola finita con sta. Io voglio capire una cosa, tu credi alla società multinazionale? No, per te i matrimoni misti è come chiedere, scusa Cruciani, ma è come chiedere a Dracula se gli piace il sangue. Se tu intervisti Dracula, scusa, signor Dracula, è ovvio che ti dice che la società multinazionale fa schifo, che gli ebrei non sono stati sterminati, che Hitler era un grande statista. Le piacciono i negri? Questo ti dirà no. Le piacciono i migranti? No. Le faccio una domanda io. Lei vorrebbe un'Italia soltanto bianca e cristiana? La vorrebbe? E questo qui ti dirà di sì. Aspetta, lasciamoglielo dire a lui. No, te la faccio io l'intervista al nazista. Intervistami. Ti faccio io la parte del nazista. Sentiamo. È un tutologo. Ma non è un tutologo, tu sei un minchiologo. Ma se tu mi fai le domande a me, chiedimi a me. Caracino, siete stati denunciati per violenza qualcosa? Privata. Violenza privata, perché siete entrati. Questa è una buona notizia. Siete entrati a casa degli altri. Godo. La democrazia. Vabbè, gode con poco il signore là. Sì, per cosa l'hanno denunciato? Me lo ridici, Cruciani, ti prego. Violenza privata. Oh, che meraviglia, dimmelo ancora. Il nazista denunciato per violenza, me lo puoi dire? No, potete denunciarsi 100.000 volte, non cambierà. Che meraviglia, denunciato, che bello, mamma mia, quando arriva la polizia a suonare a casa sua, mamma mia, me lo puoi ridire? Tu sposeresti mai una nera? No. Mai, perché? Ma perché credo che è questione che... Cioè i bianchi si devono sposare con i bianchi? Di affinità, ecco, questo è il discorso culturale. Sì, lei troverà sicuramente la persona adatta come affinità. Beh, ma lei sicuramente l'ho trovata. Ma che c'entra la pelle con l'affinità, scusami? Come lei, per cui secondo te andrebbero addirittura proibiti i matrimoni misti? Ma io credo che ogni popolo abbia la sua terra e ogni terra deve avere il suo popolo. Per cui tutti i neri andrebbero mandati via dall'Italia? Ogni popolo deve avere la sua terra. E dunque in Italia ci vorrebbero solo i bianchi, ma è questo? Sì, solo gli italiani. Bianchi? Italiani. Italiani, che vuol dire? Se un nero può diventare italiano, secondo te è sbagliato? La cittadinanza è connaturata al sangue, cioè un diritto al su sangue. Cui si basa. Di che colore ha il sangue lei? Di che colore ha il sangue lei? Il suo sangue è bianco o rosso? Di che colore è il suo sangue? È una domanda tra le più stupide che abbia mai sentito, per cui ha parlato il grande intellettuale della destra italiana. Farete altri blitz? Quali altre operazioni avete intenzione di commettere? Sentiamo. Lui quali dice altre faranno altri blitz. Vista la visibilità, l'uso della violenza, non diciamo, è violenza così. Questa attenzione, ma avete intenzione di fare anche qualche azione magari violenta con delle razze? Noi facciamo politica, non facciamo azioni violente. Dopo. Quando vi dicono che siete fascisti, lei è contento? Sicuramente non è un'offesa per me. Non è un'offesa, certamente. Ma naturalmente, Parenzo, naturalmente. Beh, lavora una vita normale, diciamo anche. Certo. Che fai di mestiere? Sono autista magazziniere. Autista magazziniere. Sì. Ti saluto, ciao, ciao. Perfetto, ciao. Ti voglio segnalare, David, che in realtà più che l'irruzione, se uno è da denunciare, più che per l'irruzione in quel posto lì, forse per qualche piccola cosa che ha detto in questa intervista, c'è più materiale, no? C'è più materiale. Se, no, proprio, no, ma... se proprio uno lo deve denunciare per apologia di fascismo, eccetera. Ma forse... non è apologia di fascismo, cioè, cerchiamo di capire, qui siamo un po' oltre l'apologia di fascismo, ormai a quello ci siamo abituati, anch'io stesso ormai bianca, mi faccio razza... la doccia, mi rilasso, ma ormai io guarda sono arrivato a questo, che in questa situazione mi rilasso quando chiamo un fascista, oh dico finalmente, oh strano, adesso siamo oltre con i nazisti, ecco ora sono i nazisti vestiti di nero, la razza bianca, benissimo, che parlano con, vabbè insomma. Pronto, prima si parlava di Mussolini. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Scusi un attimo, in questo momento sto cagando, so al cesso, che faccio? Tiro lo sciacquone oppure continuo a cagare? Dimmi. Mio. Mi dica lei. Orario, quando lei è disponibile. Non lo so, un orario. Io domani. Va bene, ripeto, adesso non vuole continuare, che faccio allora? Tiro lo sciacquone oppure continuo a cagare dentro? Ma come va a fanculo? Scusami. Allora, caro David, continua la tua campagna di aggressione alle lavoratrici e ai lavoratori di questo paese. Ma quale aggressione? Anzi, diciamo che siamo tutti con le lavoratrici dell'IKEA che hanno manifestato contro quella decisione assurda di licenziare una donna sola che deve crescere due figli di cui uno disabile. Non ho studiato la faccenda, e che non è stata licenziata dall'IKEA semplicemente perché aveva chiesto di cambiare il turno perché non poteva gestire e seguire il figlio, due figli da sola, divorziata, eccetera. Uno di questi fosse disabile. Solo per quello hanno fatto una follia. Hanno fatto una follia. Tardi ai due turni che gli avevano assegnato e l'hanno licenziata. Bene. Allora, manifestazione della lavoratrice e dei lavoratori. Vabbè, l'IKEA d'accordo. Cambi il registro e riassuma la giovane madre. Beh, allora, abbiamo in collegamento però un signore che è stato aggredito l'altro giorno e lo ringrazio per questo perché le sue condizioni non sono eccezionali. Un paio di giorni fa, forse addirittura ieri mattina, Pier Federico Bossi, buonasera. Buonasera a lei. Anzi, Perugia 32, com'è che ti devo chiamare? Com'è che il tuo taxi qual è? Federico, chiamami Federico, va bene. Federico, va bene. Tu? Sì, diamoci del tu, dammi del tu, certo. È vero che ci senti ogni sera? Sì, beh. Allora, Federico Bossi è un tassista di Milano che l'altro giorno è stato aggredito da un signore, il quale adesso comincia a dare delle opinioni, delle versioni un po' diverse rispetto a quello che è successo, ma andremo subito al punto. Federico, dimmi un po' che cosa è successo esattamente. Mi sembra che era ieri mattina? Sì, ieri mattina alle 7. Io ho lasciato la prima cliente, la prima costa inizio alle 6 a lavorare. Sì. Ho lasciato il primo cliente in centrale, loro vado in centrale, vado nel mio classico bar, questi bravi ragazzi in via Leo Petit, angolo Vitruvio. Sì. Siamo vicino alla stazione, tanto per chiarire l'idea agli ascoltatori. C'era, vicino alla stazione di Milano, via Le Petit, angolo via Vitruvio, sì. Allora? Quindi di polizia è piena, ce n'è a flotte. Sì, quindi una strada non deserta, questo vuole dire. No. Insomma, certo, pieno di negozi, cosa. Stavo parcheggiando per mettere la macchina lì sull'alto, arrivo questo signore qua che suona, ma in realtà lì ci passava, come poi le telecamere della macchina dimostrano, si è fermato, è iniziato ad insultarmi, parole, ti ammazzo come hanno ammazzato il tuo collega. Aspetta Federico, mettiti un attimo meglio perché ti sentiamo male, scusa. Sono coricato. Ah, sei a letto, sì, scusa. È a letto. Allora devo stare nella posizione. Sì, no, tranquillo. Allora, non cigolare. Allora, dunque, siamo rimasti di dove? Cioè, tu hai parcheggiato la macchina. Sto parcheggiando la macchina per andare nel bar, che era lì. Scendevo la macchina, attraversavo il marciapiede, era lì. Questo tizio qua che ci passava, perché poi le telecamere di mostro ci passava, si è fermato, ha iniziato a insultarmi, parolacce, classiche parolacce da traffico, ma fa parte del gioco, voglio dire. Classico cafone che prendi la mattina. Ma tu gli hai risposto? Lui va insistendo dicendo t'ammazzo la Madonna per così poco, ma lascia stare, sono qua per lavorare, t'ammazzo come hanno ammazzato il tuo collega, questo va proprio classico coatto, sì. Allora poi parte davanti 5 metri e lì c'è un portone, si infila su, sì. Ho detto magari abiterà qua, allora io non sono sceso lì perché adesso scendo lì, lui è lì, Allora prendo, parto e vado avanti un 100 metri, a metà di Viale Olimpiche di destra c'è un hotel. Sì, sì. E poi io ho visto il parcheggio lì, la parcheggio qua perlomeno. E poi scendo, ci sono le telecamere che riprendono il tutto. Sì, sì, abbiamo visto, sì. Col mio telefonino, chiudo la macchina, porto fuori il telefonino e vado camminando sul marciapiede lato sinistro. Questo qua parte con la macchina, sì. E quando vedo che lui non ha più tempo per salire in macchina, faccio finta niente, vado, lui arriva, scende la macchina, sì. E vedo che ha in mano qualche cosa, come si vede dal video, e viene verso di me, e lì mi aggredisce. Ma con che cosa aveva in mano, un coltello? Un coltello, e poi mi aggredisce e cadiamo per terra. Io lì ero sopra, quando ero sopra lui era bloccato, sì. E dicevo, ma non voglio picchiare, potrei picchiare, ma non ti voglio picchiare, io voglio andare a lavorare, cazzo, che rompi coglione, ma vaffanculo. Mi alzo, pensavo che la cosa fosse finita lì. E come poi si vede telecamere, perché non riprende quella parte, quando ci alziamo, io mi sposto verso questa Mercedes nera, sì. E lui mi rincorre, io continuo a girare, non volevo incontrarlo fisicamente, sì. Volevo fare, cioè tu a un certo punto per qualche secondo hai tentato di schivare, di evitare il contatto, diciamo. Io non volevo contatto fisico, cioè non volevo fare a botti, sono lì per lavorare, certo. Ma a un certo punto ti ha morso l'orecchio sinistro o no? Poi quando mi sono avvicinato alla macchina, io cercavo di scappare, chiudo dentro, cosa faccio? Quando sono avvicinato alla macchina nel lunotto si vede che lui mi tira due pugni, io le prendo due pugni, le paro e poi lui cerca di darmi una testata. Che ma perché non ha preso il telefono e è bravo a chiamare subito la polizia, urlare, momento, suonare col clacson, che ne so io? Ero giù dalla macchina, come faccio a suonare? Il telefono, a parte che poi era per terra, mi è caduto nel... Mamma mia, pazzesco, un criminale, un criminale. Le telecamere sono lì. Sì, sì, no, ma io voglio capire, ma l'orecchio... Un criminale. Siccome le prime notizie erano che ti avevano staccato l'orecchio, ma questa... E poi da quando si vede che io mi tiro questi pugni qua, ci tuffiamo lì, sì. E lì cerca di darmi la testata, io mi sposto per evitare la testata, sì. E mi morsica l'orecchio sinistro e mi ci taglia un pezzo. Ah, un pezzo, dunque ti hanno tolto, alla fine ti hanno asportato un pezzo di orecchio? No, non mi hanno asportato, è tagliato, perché c'è un taglio dietro la parte dell'orecchio che è stato strutturato con dei punti, sì, non è sì. Una cosa banale, non è il taglietto. Che no, per carità, quanti punti ti hanno messo all'orecchio? Non lo so, perché non ero in quella fase lì, non l'ho chiesto. Poi, poi come è proseguita la cosa? Poi dopo lui, io colavo di sangue, lui, come si vede, è andato verso la macchina, io sono andato verso la macchina, ci ho fatto fermare, con la mano mi tenevo l'orecchio. Sì. Perché sentivo un dolore terribile, sì. E li invitavo a fermarsi, dove va, chiamo qualcuno, chiamo in ambulanza, ma esce così. E questo qua è arrivato, prima è venuto contro e sono caduto sul cofano, sì. Poi ha fatto retromarcia, pensavo che ritornavo al posto, e in quella fase lì la mia sensazione è che tutti i giorni cade quelle cose lì, sei avverso, sì, certo. A quelle cose, sei lì un po' in panico, poi gli spettatori c'erano gli spettatori, e nessuno è intervenuto, qualcuno chiamerà. Poi lì questo qua riparte, e lì dove io ho avuto la peggio, cioè mi è venuto, mi ha colpito sulle ginocchia, io sono caduto, mi tenevo la mano sinistra all'orecchio, sono caduto sul cofano, picchiato la parte sinistra, e lì mi sono rotto il setto nasale sul cofano della sua macchina, e mi ha trascinato per 50 metri, poi ha frenato di colpo e io sono volato giù. Senti, alla fine hai un mese di prognosi, concretamente che cos'hai? A parte il lobo dell'orecchio con un... Ho il lobo dell'orecchio con i punti. Con i punti. Setto nasale rotto. Poi? E una micro frattura alla clavicola sinistra, perché io tenendomi l'orecchio sinistro ho dato col gomito e ho fatto un po' leva, così mi dicevo... Allora, lui dice che sei stato tu a mozzargli un dito, cioè lui dice non l'ho morso all'orecchio, forse gli si è staccato urtando contro un vaso o contro il marciapiede. Lui allora io gli direi a questo signore qua di parlare con il medico che mi ha cucito l'orecchio, che era un chirurgo plastico, gli dica a lui se era un morso o una stregatura. Lui ti ha detto chiaramente che era morso, a parte che l'hai provato il morso, no, penso... L'hai provato sulla tua pelle? Ho sentito il morso, proprio il morso, lo stesso morso che dai un panino col salame quando hai fame, lo stesso morso era sul mio orecchio. E tra l'altro la fidanzata là in tribunale dice che no, vi state sbagliando, lui non è un animale. A te è parso... Io hai mai visto uno così, reagire così? Non lo conoscevo prima, da quello che mi è successo mi sembra che i galantuomini sono totalmente diversi. Vabbè, un galantuomo, non c'è dubbio che non sia stato un galantuomo in questa occasione. Non voglio adesso. Beh, ma se andate sul suo profilo Facebook trovate anche di tutto su questo signore. Cioè, un galantuomo non si comporta così, capisci? Ma che farai? Lo porti in tribunale, lo denunci? Sono stato obbligato perché poi la polizia... No, ma gli chiedi danni, dico? E io sono a casa fermo 30 giorni senza lavorare. Beh, dice, quasi automatico, dici? No, in automatico, perché poi la polizia, una volta dimesso dall'ospedale, mi ha gentilmente accompagnato a fare la denuncia. Devo dire un grazie. C'ha paura adesso, sì. Alla polizia. Ma è pericoloso fare il tassista, secondo te, in una grande città? Oppure in realtà sono casi così che sono... Sei stato sfigato, perché secondo me sei stato un po' sfigato, o no? No, sono stato sfigato a trovare uno... Che poi l'hanno trovato tutte queste armi qua, l'hanno trovato, eh. Sì, sì, lo so, ho visto le con armamento. Io in macchina non ho le biro per fare le ricevute, o il post per le ricevute, cioè, non ho questi strumenti qua, capisci? No, ma certo, mi domando e dico a cosa ti servono. Ma questo fa il culturista, che ne so, può dire un sacco di cazzate, finché uno non lo usa addosso a qualcuno, sai, non è quello il punto. Ma le macchine non si possono portare. Ma ripeto, è pericoloso fare il tassista a Milano o beh, no? Sì, certo che è pericoloso, ovunque. Infatti lo dimostrano, cioè io mi ritengo iperfortunato, i colleghi hanno avuto la peggio. Cioè ti poteva, ma ti poteva ammazzare secondo te con quello che ha fatto lui? Sul cofano della macchina, se io non avevo la presa, quando lo acceleravo andavo sotto il cofano, sotto il paraurti finivo... sotto la macchina. Certo. Non so se hai mai provato tu viaggiare su un cofano di una macchina. No, per fortuna sì, no, per fortuna no. Lo vedi nel film di... Sì, nei film, quelli dove sono finte queste cose qua. È spettacolare, però dal vero... Che shock pazzesco, sì. Che shock pazzesco, mi dispiace. Va bene, sì. A presto. No, rimettiti. Saluti. Rimettiti, ciao. Bocca al lupo, bocca al lupo, cara. Grazie. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. Tonight, tonight. Set this time alight. Whoa, whoa. Allora, Giuseppe D'Ancona, vai Giuseppe, vai. Pronto? Dimmi Giuseppe. Pronto? Da Palermo, no Ancona, scusate. Dimmi Giuseppe, vale. Dimmi. Niente, volevo il discorso di poco fa, un ragazzo ha chiamato dicendo che lui si sta fumando un cannone, sì, di fumo e sì, erba. Sì. Per me, non voglio dire ora qua due parolacce, però vabbè. Comunque sia, lui va a fumare una sostanza... di cui della marijuana non c'è magari niente all'interno, il fumo. Dico, cosa c'è all'interno del fumo? Vabbè, di marijuana? Adesso, che ne so, io mica ero accanto a lui, che ne so, ci che sarà, cosa c'è? No, in generale ci sarà una piccola percentuale di resina e poi tutto taglio che le mafie vanno aggiungendo. Può per essere, aumentare. Può essere, non c'è... No, non, può essere. Probabilmente, dico. Cioè, vuoi dire che sostanzialmente che quello che si fuma in Italia la maggior parte delle volte è una roba chimica, schifezze che mettono, sì, dentro? Se è comprato in piazza, certo, ovviamente. E allora? Dico, secondo me... Cioè tu stai dicendo che bisogna procurarsi buona erba alla fine? Ecco qua, facendo un uso regolare, certo, non puoi stare qua... Cioè tu dici facendo un uso regolare con dell'erba buona, con delle sostanze buone, non ci sono gli effetti devastanti che qualcuno dice? Esattamente. Ma è quello che tu fai? Sì, certo. Io la produco. Ma dove te la autoproduci? Certe volte autoproduco e poi così. Ma non ho capito, e poi dove te la procuri? In piazza. In piazza? Che perché ormai... caro mio, qua non possiamo... Ma è facilissimo. Si parla sempre di una sostanza stupefacente, illegale. Ma che ne sai che è quella originale? Vabbè, io ho detto in piazza per dire in piazza. Sicuramente non sarà la piazza, però vabbè. Vabbè, che sia non piazza o no. Dirti dove, certo. Ma se la procurerà via internet, se la procurerà da amici... No. Ho, diciamo, un contatto di fiducia. È un contatto di fiducia. È un fornitore, un fornitore. Beh, si chiama fornitore. Uno spacciatore, ragazzi. Uno spacciatore. Chiamiamolo fornitore, che è meglio. Per me non è uno spacciatore. Beh sì, uno che spaccia, io non lo sto dicendo. Uno spacciatore, tecnicamente è uno che spaccia, quello sì. Tecnicamente è uno che spaccia, però è costretto a farlo, nel senso non può farlo altrimenti. Ho capito ragazzi, però spaccia. Non può lui pagare le tasse per fare questa situazione, non può... Ma può trovarsi un altro lavoro dignitoso, no? Può ragazzi, fare un altro lavoro. Non è che adesso non stiamo... Perché non è un lavoro dignitoso? Qua parliamo di un semplice agricoltore, però... non è che... No, hai dato un'altra notizia, è un agricoltore. È un agricoltore che prende il ciclo della sua pianta, si vende quello che ha coltivato e poi raccolto. Che cosa c'è di tanto... No, ho capito, però disonesto. No, ma non so, che non so se è disonesto, se spaccia droga, no, e dunque non è consentito, fare. Non è consentito spacciare droga, commette un reato, punto e basta, cioè, purtroppo. Io sono a favore della legalizzazione, come è noto. Però amico mio, tecnicamente è uno spacciatore, sì, cioè, sì. C'è poco da fare, sì. Così. Certo. Vabbè, ragazzo, quante canne te fai di questa roba? Due al giorno per ora. Due al giorno. Beh, tantino, due vecchio. Non è tanto, al no? giorno tu dici, uno se... dopo la fine della lezione e uno la sera prima di dormire. Tu dici, se è buona non fa male, però questo è tutto se da lì. Non fa... Certo, non in grosse quantità, è normale. Ma in grosse quantità, due al giorno mi sembra una quantità, insomma... Vabbè... Che dobbiamo fare? Andiamosene a casa. Senti, io no, stasera... dobbiamo dire un'ultima cosa, che, fare che gli auguri al... oggi è il compleanno del rabbino della Zanzara, di Shlomo Pechor. Ma ragazzi, no, questo è sbagliato, questo è sbagliato. No, questo è mancanza di rispetto. No, questo è sbagliato, no? E lui questo si aspettava che gli facesse. Che ne so, io non mi ha messo niente. Shlomo, oggi è Shlomo, sei un grandissimo, il rabbino della Zanzara, il menestrello del sesso, il menestrello del sesso. Fai gli auguri al rabbino, scusa, tanti auguri. Il raccontatore. Chi è che ha messo giù? Chi è? Mortacci vostra, il raccontatore del sesso alla Zanzara, il rabbino Shlomo Pechor, tanti tantissimi auguri. Ciao. Bravo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.